Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot. Ma io veramente dico... Senta, guarda, mettiamo lo spot della sua nuova lingua madre, ovvero il tocco di... Chi è Alex Peroni? 375? Lasciamo stare, chiamiamo dopo. Il nuovo millennio è alle porte. Sì. E il mondo necessita di una lingua unica. Sì. Un modo di parlare universale. Certo. Il padre dei padri. Vabbè. Il fondatore dei fondatori. Sì. Ha trovato la soluzione. Da oggi si parlerà il tocoiese. Da oggi si parlerà il tocoiese. Una lingua semplice, un modo di espressione moderno. Sì. Finalmente ci si capirà ovunque. Impara anche tu il tocoiese. Entra in una Jimmy School. Ma che scuola? Da anni, centro educativo per milioni di persone nel mondo. Un esempio? Ostamete fanatoi come este matai mai. Otomote mai. Schemef. Uguale, ciao. Ma hai capito quanto è semplice parlare il tocoiese? Per maggiori informazioni, visita il sito della tua nuova lingua madre. Sì. www.tamazkufaranki.com Andiamo avanti con questa farsa. Ma non riesce a dirlo nemmeno lui. Sarebbe una delle voci più pagate d'Italia. Ma è una lingua impossibile. Senta. Ma chi è sto qui? www.tamazkufaranki. Ma neanche mille lire bisogna dargli a questo qui. Tamazkufaranki funai. Ma veramente? Ancora, basta! Sparagli! Koto. Sì, Koto. Koto Moto. Ma basta! È impossibile! Ma veramente, guardi, oh. È una lingua impossibile, Jimmy! È facilissimo! Ma non ce la farà mai nessuno a parlare questa lingua. Parliamo tutti una lingua diversa per ogni paese, come sempre è stato. Dopo voi, costo godai! Certo! Sarà mai Marco Faiez? Lascia stare! Ieri sera alla cena c'era anche lei, ubriaca, sta mucca moderna che fuma le sigarette. Ma non puoi portare una mucca in un ristorante perché ha bloccato tutta la via del ristorante. Sì, ma lei fa parte del programma, quindi Muriel non può mancare le cene. No, c'è un fax di Valentina che dice: ciao stupendo, ho una terribile curiosità che solo tu mi puoi togliere. Ma come potevate ieri sera essere tutti al cenone se Ringola, Zac e Ross Pellecchi erano in onda? Semplice amore, finita la trasmissione ci hanno raggiunto. Più facile di così. Senta Mago, lei che è esperto in tutto, mi fa apparire un disco nuovo, un New For You? Ok. Al mio 3. 1, 2, 3? No, non funziona, devi dire direttamente 3. Ah, ok, fai, vuoi fare una tua magia? Vai, tu dimmi, tu di 3. 3. Il nostro New For You, novità di oggi su Radio 105, ne abbiamo tantissime da farvi sentire. Era il nuovo di Eric Clapton, si chiama Get Lost Remix. Senta. Sì, mi dica. Facciamo un saluto ad Ale, Tere e Dani, che sono tre ragazze che lavorano per 105. Esatto. Nella sede romana. Esatto. Esatto. E bisogna salutare anche Cilla, sì. Simmi e Marzia. Sì. E mi hanno scritto anche: come vedi sono donne. Insomma, una foresta unica. Ma smettiamola. Roma, eh? Ma perché deve sempre dire ste cattive? C'è da lavorare a Roma. Certo, vieni su da lì, vieni giù da lì, eccetera. Io volevo ricordare che più tardi ci sarà lo spazio dedicato alle vostre infamate, ovvero la bastardata del giorno. Bravo. Quindi se avete qualcuno da insultare o qualcuno che vi ha fatto girare letteralmente le parti sferiche, mandateci un fax o chiamateci al numero verde, noi saremo qua a disposizione. Ma tra poco giochiamo a un gioco fantastico. Tra poco muggisci e vinci. Muggisci e vinci. Chiamaci subito al... Senti Fanny, io non posso. Cioè, è inutile che mi... Ma cosa te ne frega, anche tu? È una roba così, un'amicizia, non ma è che... Fanny, cosa ci fa lì? Sì, adesso da quando sono andato alla festa... Sei innamorata di te? Sei innamorata di me? Ma com'è possibile? Ho capito, devi per forza dirla a tutti, non lo so, non è che possiamo... Fanny! Parlare... Ma cosa fai nel suo ufficio? Mazzoli. È un cretino, sì. Ma scusa, ma com'è che ci sente? Ma perché lui è uno un po'... sai, avendo lui al naso... Invadente. Ma cosa invadente? No, è proprio rompipalle. Ma ti giura? Ma che a me me l'avevano detto, poi... Ma scusa, ma... Senti, il tuo fidanzato è un mio amico. Vuole che rappo con lui, ma io non posso rappare con lui. Perché? Perché devo andare con Puff Daddy? Ma non ci credo. Te lo giuro. Ma sei un grande, ma cos'è che ti ha chiesto? Come vuole che gli faccio il ritornello della nuova canzone? Sì, no, e ce l'hai già pronto? No. Te lo devi preparare? Mi aiuti? Ma guarda che devi fare, se vai con Puff Daddy, freestyle, devi improvvisare, non è che devi stare tanto lì a ragionarci su. Ora. Potresti pensarlo subito. Quello che ti viene fuori, vomita parole, vomita parole. If you let me stay. Che schifo. Va bene? Fa schifo. È bello? Fa vomito. Daddy? Sì, Puff Daddy. Mi ha chiamato lui. Senta, mentre voi due. Senti, allora noi continuiamo un discorso a parte? Ma che discorso? Il tuo fidanzato però, come facciamo? No, ma non c'è problema. Ma come non c'è problema? Tranquillo. Ma pensa a te. Sportivo, Ma che sportivo, siamo Max? Avanti, siamo nel 2000, siamo hai capito? Ma voi continuate a parlare, io parlo di altre senti, cose allora, intanto. Qua, sportivo poi mi scappa. Esatto, vieni qua. Gente amor che io non duo, la eternità venga seguro, tu e giù il desnudo e il corazon. Rap. Rap cosa? Non è un rap. Poi si dice rap. Lei però mastica un po' male l'inglese, eh? Praticamente la mia lingua madre. Certo. L'inglese. E Puff Daddy, come diceva prima, si dice Puff Daddy. Ma, senta. Sì, Puff Daddy, diciamo. Siamo in ritardo. Quindi, sigla? Vada. Vada. Ciao a tutti, io sono Giorgio Mastrota e volevo dire che devo veramente tutta la mia carriera a Jimmy. Jimmy, devo salutarlo, devo tutto a lui. È lui il grande scopritore di talenti commerciali, no? Ciao, sono Kay Rush. Anch'io devo il mio successo a Jimmy. Hi Jimmy, this is Bill, Bill Clinton. Ciao, sono Alexia e anch'io devo il mio successo a Jimmy. Sigla! Benvenuti nell'angolo di Jimmy! Mille. Adesso cosa c'ha? Canta. C'ho questa vena che non avevo mai scoperto. Sì, certo. Mi scrive Donatello. Come Donatello? Senza il nasone, c'è scritto tra parentesi. Ok, un ascoltatore. Caro Jimmy, ho un problema. Mazzoli, sono Jimma. È vero che puntini puntini, cioè io non ne posso più di sta storia. È vero, è vero, è vero. È vero cosa? Senta, qua c'è un fax che dice: sì. Sono bionda, buona e bella. Ecco. Maggiorata e porcella. Sì. Mi chiamo Antonella e sono in cerca dell'anima gemella. Sì. Vorrei tanto farmi fare un sudalì da Jimmy. Ma che cosa? Detto così, ragazzi, la carta canta. Giochiamo a Mugisce e Vinci. Muggisce e vinci. Attenzione italiani, anche oggi su Radio 105 giochiamo al nostro fantastico, famigerato, amato gioco Muggisce e vinci. Lei ha studiato, vero? Il Muggisce e vinci a scuola? Sì. Visto? Chiameremo Cagliari e Padova, in palio c'è la maglietta di 105 e poi il premio finale della settimana che daremo domani. Che bella figa c'è qua sotto. Ma basta! Madonna. Signora? Ma vieni! Vieni! E allora vieni andare lì! Ma vieni, bell'uomo! Ciao, bastardo! Ciao, Pietro! Maledetti! Oggi siamo... Scusa un attimo, mamma mia, ma chi è questa ragazza? Marco! Aspetta, Pietro, scusami, adesso, ecco, non so, io, lasciaci fare gli affari nostri anche. Non è che siamo in onda, voglio aveva dire. Aveva il reggiseno. Carina però, eh. Aveva il reggiseno. Che bello trasmettere in vetrina. Senti, ma ieri sera cosa hai mangiato tu? Marco! Oh! Scusate. Pietro! Senti! Sì! Ti ho visto in Sway Shot, no? Quando lì nel festino... La tua maschera non è che coprisse tanto il tuo difetto fisico, pure è l'unico che non è che agisse tanto. Vai, continua a offendere, vai tranquillo, non c'è problema, vai avanti. Ho le spalle larghe, guarda, vai tranquillo. Vai, siete vai. Forti. E pensare che una volta la Sardegna era bella. E invece adesso? Ormai non più. Quella siete proprio bastardi dentro, perché mi è esploso un piede, lo sapete. Veramente? Sono in stampelle a casa, una sera non vi ho ascoltato. È un peccato, vedi, vedi? È un peccato. Pietro, ti mandiamo la maglietta di 105. Saluto delle ascolta Muke e me ne vado. Va bene, vai. Sono Maria Luisa, sì? Silvia e Silvia. Ciao Pietro. Ciao ragazzi, ciao. Un bacio, ciao. Andiamo veloci a Padova. Mai parlare dei fatti propri in radio. Assolutamente no. Senti, sai che ieri sera... No, ma lascia stare, stamattina per pagare una bolletta ho dovuto girare 6 posti. Ma è normale, siamo in Italia, eh. Poi si lamentano che i ragazzi. Poi si lamentano che entro e picchio la gente. Ma guarda te che robe strane. Padova in corso, attenzione, Mugisce e Vinci, 105. Ma sei veramente una grande! Ci sei? Come? Amore! Dimmi. Monica di Padova, sei veramente una soddisfazione, giuro. Grazie. Sei una delle mie tante soddisfazioni che 105 mi sta dando da un anno a questa parte, perché voglio dirlo, il 25 di dicembre io compierò un anno qua. Sono un po' grande per avere un anno, però è così. L'unica soddisfazione perché non mi hai ancora visto. E sei ancora meglio? Certo. Oddio, amore, no, occhio che poi scattano le metamorfosi, mi licenziano proprio allo scattare dell'anno. Monica, ti mandiamo la maglietta di 105 e mi sa che tu parteciperai al premio finale della settimana domani, eh? Ok, grazie. Ti vedo bene, ti vedo molto bene. Ciao tesoro. Ciao, ciao. Ciao Monica. Quante volte l'abbiamo suonato sto disco? 1,5 miliardi. Che figata, bei tempi però, eh? Già, grazie Mago. Corona con The Rhythm of the Night su Radio 105. Vi siete divertiti? Quando, ieri sera? Avete fatto i bagordi? Ma abbastanza, avete sì. Bevuto? Abbastanza, sì. Grazie Jimmy. Occhio. Occhio. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. A questo punto è vero, è vero, bisogna che oggi si fa un'indagine accurata dell'azienda. Esatto, vogliamo constatare quanti rendono al 100% sul posto di lavoro. Nessuno a parte Davide Gaddia, ovvero il dottor D, che non è venuto, il è l'unico, capo, esatto, il capo. Il tuo capo. No, si faccia i cacchi suoi. Allora, senta. Chiamiamo l'amministrazione, mi sembravano quelli messi peggio. Facciamo un numero, vediamo. Vabbè, vediamo. Voglio sapere chi chiamiamo, mi scusi, Chi chiamiamo? Amministrazione, attenzione. Cambiamo. Chi sta chiamando? Assenteismo qua oggi. Certo. E uno lo stiamo già beccando. Ha messo gli occhiali con disegnati gli occhi aperti. In realtà stanno dormendo, perché sono tutti ubriachi ancora. Questi stanno ascoltando la radio e non rispondono. E una già assente l'abbiamo trovata. Oh, chi era? Diciamo nome e cognome. Patrizia Sassu. Ecco, assente. Quindi, ragazzi, assenteista. Io parto dall'alto. Benissimo. Non mi piace andare in basso. Dove andiamo adesso? E che ne so, io faccio il numero a caso. Cosa vuole che ne sappia io? Mi dica dove andiamo perlomeno. Amministrazione. Andiamo in amministrazione. Perfetto. Allora, aspetti. Anzi, no, chiamiamo questa qui. Chi è? Ecco, è occupato, ecco. Sarà al telefono col marito, che sarà ingelosito perché ieri sera è tornata a casa un po' storta. Chi altro chiamiamo? Ma ti rendi conto? Ecco, vediamo. Chi è? Proviamo a mangiare insieme, sì? Pronto? Sì. Chi è? Sono Laura. Laura, sei in diretta, sono Mazzoli. Ciao, amore. Ciao. Senti, ma come siete messi lì in amministrazione? No, a parte che io sono del commerciale. Ah, vabbè, ma fa uguale, dai. Sei un pirla, Mazzoli. Ma smettila, Jimmy, per favore. Laura? Sono rovinata. Ecco, quindi il tuo rendimento sul posto di lavoro quant'è oggi? A livello di percentuale? No, direi che tutto sommato va bene. Non troviamo scuse, forza. Ho i cadenti che tengono. Senti, ma possiamo usarti come riferimento? Adesso tu fai tutto il giro del terzo piano e ci fai poi un resoconto dello stato delle persone. Dunque, vi posso solo dire che c'è il cestino dei bicchieri del caffè che è stracolmo. Non sappiamo più dove mettere i bicchieri del caffè. C'è un via vai la macchinetta che fa paura. Chissà perché, È l'unico sistema per tenerci un po' svegli. Certo, oggi. Certo. Sì, scusa, Laura. Sì. Puoi dire a Sara che non si tiene il telefono occupato quando il capo la chiama? Grazie. Senti, amore, ti diamo un bacino, ti chiamiamo più tardi per sentire come state, eh? Anche un abbraccio. Ciao tesoro. Ciao. E anche un vieni su da lì, dai. Ciao. Domani sarà un giorno peggiore. Morirai. Luna Pop, un giorno migliore su Radio 105, all'interno dello Zoo di 105 con Mazzoli, il Mago Wender, Jimmy, Gibba. E adesso attenzione, abbiamo in linea una fantastica ascoltamuca. Pronto? Pronto. Ciao. Ciao, bellissimo. Oddio mio, chi sei? Mi chiamo Elisa. Quante H finali, amore? 4. Oddio, 4 il massimo. Oh, Elisa, come chiami, Elisa? Loristano. Sei felice che noi ti abbiamo appena regalato il CD di Luna Pop che ti consegnerò io di persona con tanto di tanga leopardato o mucato a tua, ma diciamo così? Sì, ma siccome no. Fantastico, amore. A parte il fatto che mi gasa un casino questa canzone. Ma anche a me, amore. Ascolta, l'ascolteremo insieme quando ti coccolerò sotto le coperte, ok? Ti senti gasata. Ok, ciao amore, un bacio. Ciao anche. Basta te. Fare gesti, te dall'altra parte. Sto parlando con lei. Lungomare di Bolzano. Siamo in attesa di collegarci con il programma di Jimmy. Cos'è sta roba? Pista sciistica di Milano Marittima. No, ma non c'è. Allora, sono Ringaccio. Mazzoli, scusa se interrompo il tuo programma, anzi il programma di Jimmy, solo per ricordare del mio programma che va in onda tutte le sere, dal lunedì al giovedì, dalle 20 alle 22, il Planet Ringo. Scusami, grazie Jimmy, sei molto gentile. Planet Ringo, da lunedì a giovedì, dalle 20 alle 22, su Radio 105. E se tu guardi nei palinsesti della radio c'è scritto Marco Mazzoli, non c'è scritto Jimmy. Tra parentesi c'è scritto Barbone. Ma non è vero, poi diciamolo, è mio. Allora, senta, sì. Io non vorrei, diciamo così, battere il chiodo finché è caldo. Però Mago, senta, gli rinfreschi un po' la memoria a sto pezzente. No. Lo mandi un po' nel futuro. No, nel futuro no. Magica, vai in foot a fare il tuo stop. No, ancora no. Attenzione, teletrasporto in corso. Questo è il futuro del DJ Marco Donatello Mazzoli. No. Carità, che no, gran carità, persona. Datemi qualcosa. Guardate come mi ha ridotto la natura. Guardate che naso. Cara, girati, non guardare, carità. C'è un barbone lì sdraiato per terra. Fa davvero schifo. Amore, ma è rivoltante. Poi guarda che naso che hai, impressionante. Ma che cosa? Dai, diamogli qualcosa a sto barbone, davvero messo male. Che barbone pezzente, ma che naso, nasone. Ma io non farò sta fine, vero Mago? No, la farà. Ma come? Se continua così la farà. Ma io non voglio. Deve essere più buono. Ma con noi che l'abbiamo creato. Ma chi? Ma sei una persona. Ma chi? Un inchino a Jimmy. Non voglio fare il barbone nel 2005. Se penso che nonostante la sua presenza il programma non piace, guardi veramente. Non voglio pensare cosa sarebbe il programma senza di lei. Certo. Grazie Jimmy. È un po' un controsenso. Lo so. Ho apprezzato, grazie. Sì. Che vedi il caldamento in tranquillità a palla. Sì. Se volete mangiare tutto quello che compra Mazzoli. Corso Magenta numero. Ma la smetta. No. Lei è un bastardo. Non è un albergo casa mia. Comunque stavo dicendo, il motivo per cui pare Jamiroquai non venda dischi è perché insomma la gente lo vede un po' troppo come un figo, capito? Non è vero. Sì, dai, Ferrari, qui, ville, eccetera. Senta, insomma, se lei è un barbone non è mica colpa mia. Ho capito, ma non è neanche colpa mia se non vende dischi. Vabbè. Oh. E quindi? Senta, cos'è sta storia della compilation? No, qua? Ma senta, prima della compilation. Sì. Finiamola. E dico una volta per tutte, finiamola! Di cosa? Con questi pomeriggi in radio non se ne può più. Quindi? E io le faccio sentire un DJ nuovo. Un DJ nuovo? Sì. Cioè, ha un provino del disc jockey che ha assunto per Radio Jimmy Network? Sì, è veramente incredibile, ma secondo me lui li spaccherà tutti. Ma sentiamo un po', c'è una sigla? Sì, ha una sigla un po' particolare. Sentiamola. Inedita soprattutto. Sì. Ha rubato da Ringo! This radio station was named. Da Radio Jimmy Network. Ma che cosa? Pomeriggio, cin cin, pomeriggio, cin cin. Da Radio Jimmy Network, pomeriggio, cin cin. Ciao amici, ciao a tutti amici, io sono DJ Gigi. Ma che schifo. Siamo qua su Radio Jimmy con il nostro pomeriggio cin cin, il primo pomeriggio che ti urinda. Ma che difetto ha di pronuncia? Mi piace, sono stato scelto tra un casting. Casting. bravo che gli ha cambiato la base. E quindi sono stato scelto tra tantissime persone che volevano fare il pomeriggio su Radio Jimmy. Sì. E più bella sta base. Lo so che vi piace, ma qual è la caratteristica del nostro programma? Sentiamo. Qual è, ragazzi, amici? Qual è? Amici, la caratteristica del nostro programma è che praticamente non smettiamo musica, mettiamo solo un disco ogni due ore. E cosa fai le altre? Diciamo ore? Che questa qui è una caratteristica veramente criminale del nostro programma. Ma fa schifo. Vuoi girare allegria che ti brinda con il pomeriggio CC. Ma adesso cosa facciamo? Mettiamo una canzone? Questo era un brindisi troppo forte. Io avanti con la musica. Ma che tristezza! È veramente bravo! Ma c'ha un difetto di pronuncia incredibile. Poi balbetta, fa schifo! Ma non è vero! Ma fa schifo! Ma non è vero, si passa sopra queste cose! È il talento che conta! Ma che talento! Guarda che fa schifo! Bravo! E secondo lei questo disc jockey batterà Marco Galli, Albertino, Mauro Marino, eccetera, dalle 2 alle 4? È nettamente più bravo di tutti messi insieme. Ma la smetta! È incredibile! Anche Federico, eh! Federico chi? Ah, l'olandese! Che dolcezza, Jimmy? La smetta! Did you really need to bring him here? Why can't we part with dignity? It's a pity about your insecurity. Se la ricorda la versione da discoteca un po' house, eh? No. Ma dai, era bellissima. Si chiama Rashid. No. E questa è Pride su Radio 105 all'interno dello Zoo di 105 con Mazzoli. Senti, io dopo devo chiederle un consiglio. So che molti ascoltatori le chiedono consigli nell'angolo di Jimmy, eccetera. What do you wanna fight? Come at you, baby. Che ne sfocchiano Forrest Gump, Kevin Costner e Top Gun. Kevin Costner e Top Gun. Mazzoli, vieni su da lì. Ma che io? No! Arturo! No, guarda, ho solo inseguito quello che mi ha detto Gib, dai. Certo, certo. Avete fatto kombucha? Eh? Ma guarda. D'Alema? Siete D'Alema voi due, Lui, dai, io no. Senti, bell'uomo, fammi ricordare una cosa. Ma lo sai, Beh, che sei bello non lo so. Però dopo da farti una domanda importante su Biella. Dobbiamo ricordare che domani sera lo Zoo di 105 sarà a Marina di Grosseto, alla discoteca Four Roses. Il mago ha promesso uno spettacolo di quelli un po'. Domani ci sarà uno spettacolo di gran classe. Esatto, un po' alla Radio Monte Carlo. Mi sto preparando, ho preparato già lanciafiamme per il. No! Ma adesso mettiamo la sigla, si gioca! Allora, Arturo, prima di chiederti quali sono i tre animali che mancano nel nostro fantastico disco che già non sopporto più, volevo farti un'altra domanda. Tu conosci un certo Pier di Biella? No. È conosciuto come Pierino anche? No. O anche Pierlino. È uno, penso sia l'unico al mondo, oltre che a Biella, ad avere uno Z3 grigio senza l'hardtop, che d'inverno fa veramente tristezza. Cioè è proprio un pezzente. Se dovessi incrociarlo per caso in giro per Biella, suona gli clacson, tira giù il finestrino e dice: sei un barbone, guarda. È un pelatone anche. Fagli un pernacchione anche. È un pelatone per caso. È un pelatone, ha i capelli corti, sì. Col naso grosso, molto brutto. No, vabbè, dai, te non sei ancora venuto a Biella, non ti posso ancora aver Cosa visto. Cosa stai dicendo? Sono venuto sei volte a Biella. Ti petardi fuori dai azzo. È vero. Senti, allora, bando le ciance, c'è fuoco all'erba del vicino che è sempre più verde. Quali sono i tre animali che mancano nel nostro disco? Abbiamo detto l'upupa, l'asino, la pecora, c'è la mucca, la zanzara, ma ne mancano tre fondamentali. Oggi è bellissimo perché quasi tutti sono venuti a lavorare nonostante questo mega cenone aziendale, però sembra siano qua tutti, e io faccio parte della schiera dei fannullisti di oggi. Sono qua solo per far presenza e basta, perché poi in realtà siamo tutti molli. È un po' bello questo stato di dopo festa, diciamo. Di Fuzz featuring Pat Appleton. Dobbiamo lanciare il gioco di Blockbuster. Attenzione, domanda del giorno, il quiz del giorno. Chi è il famoso regista italo-americano della saga di Il Padrino? Chiamateci subito all'800-105-105. Dai, lei che sa tutto. Chi è? Chi è? Carlo Vanzina. Ma no, non è vero. Ormai è diventato un tormentone. Lady Violet con Pizza Butta la Pasta, tra parentesi Inside to Outside. Questo è lo Zodi 105 su Radio 105 con Mazzoli, con Jimmy, con il mago Wender, con Giba in regia. Che belle bestie che siamo, eh? Non siamo i numeri uno. No, siamo i numeri uno dei numeri uno. Cosa gli hai preso sto qua? Oh? Ogni tanto la cena, dici? Ah no, gli altri ci fanno un baffo. Certo. Certo. Anzi, gli altri ci fanno una pettinata. Cioè, dove? Non si dice. Dei capelli. Bravo. Un attimo. Ma si ricordi? Ma Giba non sa dire niente. Che l'erba del vicino se la taglia lui, quel bastardo. Si fa presto. Perché abbaia? Non rompa i... Le palle. Bravo. Ma adesso con lo zoppo, aspetta, devo dire ancora. Sì. Non torna più indietro. Benissimo. Ne altre? Bravo. Parola di Di Maggio. Ma cosa c'entra? Che gran persona. Ma anche lui che gran persona. Veramente. Senta, c'è una persona che però secondo me non è molto grande, perché ieri sera si è ubriacato e oggi ha fatto praticamente l'assenteista. Qua piovono giustificazioni da tutti i piani. Esatto. Ha chiamato Panariello. Sì. E ha detto: io sono presente. Panariello che ruolo ha nell'azienda, diciamolo? È uno del commerciale, che lui. Esatto, uno un venditore, esatto. Bene. Ma oggi l'assenteista del giorno è stato Michele. Che io provvedo subito dal mio telefono nero carbone. Carboni. Certo. A chiamare subito, un attimo. Benissimo, vediamo perché oggi manca il nostro responsabile della parte tecnica della radio, quindi bassa frequenza. Vediamo un po', lo stiamo chiamando in diretta, abbiate un attimo di pazienza. Si può avere una base, Giba, o devo farla io? Grazie. Scusi. Michele De Gennaro. Pronto? Salve, parlo con la matricola 71200? Barra B. Ah, presente. A lei, Michele De Gennaro. Ecco, senta un attimo, ieri sera c'è stata una festa dell'azienda. Sì, ricordo. Ecco, almeno quello se lo ricorda. Siamo a buon punto. Sì. Senta, però c'è un problema, che lei oggi è assente al posto di lavoro. Come mai mi dia una... Assolutamente no. Come no? Sto già organizzando la cena dell'anno prossimo. Ma sì, adesso! Ah, adesso trova anche queste scuse banali. Sto già organizzando la cena dell'anno prossimo, sono in un mercato qua, la Jimmy Lunga. Senta, certo. Secondo lei, cos'è che le ha fatto male ieri sera la cena? A parte Mazzoli, che vabbè, fa male a tutti. Certo. A parte Mazzoli quando ha iniziato a ballare? Esatto. Ma io non ho ballato. Cosa le ha fatto male? Sono si incazza. Che squilli ha? Che squilli ha? Cos'è? La segreteria? Pronto? È vero. Cos'è? Pronto? Ah? Pronto? Ah? Salve! Ah? Jimmy? Ah? Stava dormendo? È vero. Dai, si svegli, su. La sua canzone è vero. Pronto? Stava dormendo? Chi è? Sono Mazzoli. Ma va a cagare, no. Jimmy, sono io, il tuo compagno. Anche la domenica? Vabbè, dai, mi tenga compagnia, mi sento un po' solo oggi. Sì, mi dica. È vero. Cosa? Che la domenica lei rompe le palle, non mi fa dormire. È un po' vero, sì. Ah, è vero. Sai che mi piace quando... Bravo! Gallo. Bravo! Ti sei in arretrato del mese scorso. Bravo, manca anche l'IVA da versare allo Stato. Ma non è vero! Diavolo, ma... Ladro! Che il ministro delle finanze faccia qualcosa, perché Mazzoli, veramente, guarda, non se ne Galli, può più. Galli, fermalo, spegnilo, per favore. Guarda, non si può, ma guarda, non se ne può. Pista sciistica di Milano Marittima. Ma non c'è. Siamo in attesa di collegarci con il programma di Jimmy. Ma che cosa? Firmata della metropolitana di Piazza San Marco, Venezia. Ma che non c'è? Ciao ragazzi, sono Ringo. Scusate se ho interrotto questa schifezza di programma. Delle mucche che muggiscono, non so cosa fanno, Jimmy che va di qua. Il programma di Jimmy, questo sto dicendo. Certo. Ho interrotto perché devo ricordarvi del Planet Ringo tutte le sere fino al giovedì dalle 20 alle 22, dove qui su Radio 105. Scusa Jimmy, grazie, sei molto gentile. Planet Ringo, da lunedì a giovedì, dalle 20 alle 22, su Radio 105. C'è da dire una cosa però, cioè, adesso lo voglio dire io con, proprio con tutta tranquillità. Il programma non piace. Old Dirty Bastard featuring Kellys. Siamo noi, i cari vecchi bastardi. Faremo altri scherzetti nel corso del nostro mattino insieme. Questa domenica con Mazzoli, con Giba RG, ogni tanto Jimmy che sta ancora dormendo, quanto pare. Vi diamo i nostri numeri che sono 800 105 105. Saluto Annina che è al centralino tutta rovugliata. Il fax è 02 655 1245. Prima abbiamo parlato di quel sondaggino che riguardava è meglio essere uomini o donne, e un'ascoltatrice dice: il bello di essere donna, farsi desiderare, essere trattate come delle vere principesse, baciare gli uomini, poter essere sexy con dei mini vestiti e non essere pelose. Beh, oddio, sul peloso, ma ne ho conosciute di donne pelose, eh? Mamma mia, anche in punti poco strategici, direi. Comunque, può essere vero. Mettiamo adesso un bel dischello, Armin Van Helden. Si chiama La Plage, It Was Him, Samira, novità su 105. Abbiamo un sacco di scherzi da fare, ma che siete veramente cattivi, eh? Mamma mia. Alcuni ci commissionano scherzi veramente, ma proprio bastardi nei piedi, mamma mia. Volevo salutare tra l'altro una persona che ci faxa e dice: vorrei porre un quesito. Perché voi DJ avete una voce stupenda che fa sognare le ascoltatrici, ma fisicamente lasciate desiderare? Non è un'ingiustizia, ma parla per gli altri. Oh, Giba, sono brutto io, eh? Apriti il microfono, forza. Commenta, dai, eh? Commenta, forza. Eccolo. Bello. Beh, insomma, voglio dire, cioè, ci sono disc jockey che hanno magari voci più belle, ma sono poi più brutte. No? Non lo so, dimmi tu. È bello lui. Amore, Deborah, eh? Rispondi, forza. No! Ma come no? Deborah! Faccio schifo? Anche lei adesso. Amore, io che ti difendo sempre, ti definisco la giornalista più bella del mondo. Questa è la risposta. Grazie, grazie a tutti. Cari ascoltamucche, voi che mi volete tanto bene, difendetemi via fax, vi prego. Vi scongiuro. Kiss me on the lips. Date una mano a Mazzoli. Mettiamo Touch and Go. Straight to number one. Sarai bello te, guarda. Tutto a macchie. Tu puoi soltanto andare bene per i Muggisce e vinci e basta. Donna è bello perché possiamo guardare Mazzoli e sperare di averlo almeno una notte. Ti ho visto una volta, sei bello. Toh, Giba. Toh. Grazie Silvia da Siena. Un'altra, aspetta, c'è un'altra. Adesso scusami, io parlo, quindi. Il bello di essere donna è ascoltare il Mazzoli e ingriffarsi al solo suono della sua voce, anche raffreddato, vedi? Toh, toh. Tra poco parliamo di segni da ladro, ovvero segni che spesso i ladri lasciano sui muri o sui citofoni delle varie case, e ogni simbolo che loro lasciano ha un significato ben preciso. Quindi attenzione, se per caso vi siete trovati delle robe strane sul citofono o sul muro di casa vostra, ha un significato molto importante per i ladri. Ne parliamo tra poco. Cibile degli invincibili, e chiediamo a lui un parere. Lui è sempre onesto. Chiamiamo Jimmy, dai, forza. Ha uno squillo strano il suo telefono. Guarda che strano, eh. Vedi? Ha un telefono speciale, incredibile. Adesso è normale, vedi? Ogni tanto. Pronto? Che cacchio vuoi? Mi sta ascoltando lei per radio, per caso? Senti. Guarda che non è eucalipto. Ma no! Non si morde. No! Il risveglio deve essere. È vero. Con chi sta parlando? È paura, mi ricordo il nome. Come non si ricorda il nome? Non lo so, ieri sera erano 7-8. Non vuoi che mi ricordi. Certo. Senta. Sì. Posso fare un appello? Un appello, certo. Senta. Sì. Stato... A questo qui Quale? Aspetti che le dico il numero. Sì. 0347. Ma non si danno i numeri in diretta? Sì, ma adesso glielo spiego. Vada. 9013493. 9013493, benissimo. E a tutti quegli stronzi che mandano le catene di Sant'Antonio. Sì. Ma perché non ve le mettete al collo ste cacchio di catene e vi ammazzate tutti quanti? Bravo Jimmy. Ci avete rotto le palle. Bravo, c'ha ragione, bravo. Senta, una cortesia. Siccome qua anzi, adesso farò così. Ogni volta che me ne arrivo uno do in onda il numero, ecco. Anzi, massacratelo, 0347 sì? 9013493. Bravo Jimmy. E ditele. Sì. Quando vi rispondi gli dite, ha detto Jimmy, sì? Mettitela al collo la catena, tirala. Senta, c'è un quesito. Mazzoli, eh? Secondo lei, è bello o brutto? Qua ci stanno massacrando di fax. Maculato, senti. Sì. Dopo fagli sentire quella cosa lì. Che cos'è? Così si rinfresca la memoria. Va bene. È vero. Grazie, eh. Non piace. Non piace cosa? C'è invidia. Non lo so, oggi sono stanco. Ha una voce stranissima, eh. C'è invidia. C'è invidia. Non piace. Lo so, non piace. Ciao. E c'è invidia, salve. È vero? Sì. Ah. Buonanotte. Arrivederci. Salve. Da tanto tempo. E è fidanzata, si fa presto. Si fa presto a dire fidanzata, hai ragione tu. Vabbè, senti, tagliamo la testa al toro. Cos'è sta roba? Sei brutto? Cos'è? Non hai amici? Hai spesso i brufoli? Basta. Ti senti incompreso? Sì. Tranquillo. C'è chi sta peggio di te. Mazzoli, eh. Compra anche tu il bambolotto del DJ più inguardabile del mondo. Quando sarai in crisi, ti basterà guardare il bambolotto di Mazzoli per dire: eh beh, certo che lui è messo male. Basta. E da quel momento la vita ti sorriderà. Il bambolotto di Mazzoli è un prodotto, è un peccato Corporation. Siete dei bastardi. Facciamo una pausettina, si fa presto a dire bastardi. No, si fa presto a dire bambolotto. A fra poco. Chiamiamolo a casa, dai, forza, fai il numero, su. Dai, sono anche raffreddato oggi. È occupato. Poi... Grazie Gigi. Cosa fa? Risponde lo stesso? È occupato. Che telefoni ha? È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Jimmy, pronto? Jimmy? Pronto, chi è? Chi è? Chi vuole che sia a quest'ora? Io. Ma lei ha sta segreteria telefonica che parte sempre? Sì, lei non ce l'ha una segreteria telefonica no, a casa? No, guarda, a casa mia qua a Milano non c'ho neanche il telefono in casa. Perché non c'ha manco i soldi per sputarti in faccia? È quello il problema. Esatto. Senta, vuole che gli regalo una? Ma mi piacerebbe, sì. Cos'è questo rumore? Cos'è? Non lo so, sarà... Chi? Ah, scusami, scusami. Cosa? Sali, sali pure sul letto, non ti preoccupare. Ma una mucca c'ha lì? Sì, sai. Sali sul letto anche la mucca. Fantasie sessuali. Ma che cosa? È vero. Cosa sta dicendo la mucca? Ho capito, ma io non posso mica darti la precedenza sulle altre violettrici. Certo. Lo sonno. Devo dormire. Quante donne ha sul letto, per curiosità? Non lo so, perché un po' sono andate via. Sì. Però ne sono arrivati di nuove. Ho capito. E quindi un via vai sembra Cadorna qui. Cadorna. Senta, ha intenzione di svegliarsi un attimo? Cioè, volevamo parlare con lei un po' meglio, sapere come passava l'uomo più ricco del mondo, il creatore dei creatori, la sua domenica. Senta. Sì. A che ora finisce? Alle 2 finisco. Allora ci sentiamo alle 2:05 allora. No, noi vogliamo parlare. No, vogliamo parlare con lei in diretta. Io finisco alle 2. Pronto? No. Jimmy. Su da lì. Ma con chi ce l'ha? Su da lì. Con chi ce l'ha? Dai, ma una mucca sul letto c'ha. Non c'ho tempo, dai. Con chi ce l'ha? Il programma non piace. Certo. Io devo dormire. Certo. Scusate, qualcuno di voi si chiama Invidia? Ancora. No, nessuno. Va bene. Certo. Cosa le sta dicendo sta mucca? Ecco, anche te, guarda. Cosa? È incredibile. Lei ha una capacità, lei sa far parlare gli animali. Guardi. E cosa sta dicendo la mucca? Ripeti un attimo, scusa. Non... Ah, ho capito. Cosa ha detto? Non so, li fa cagare. Ma non è vero. ma si è sentita la sua voce da Pantegana. Paolo da Bassano, fondatore del Jimmy Maranza Fan Club. Poi salutiamo la camiceria Giorgia Camice, che ci manda 860 timbri sui suoi fogli. Poi salutiamo Joe, che ci ha faxato. C'è un altro infame che dice che è stato arrestato domenica perché Halloween si è vestito da Mazzoli. E praticamente l'hanno arrestato perché non aveva il permesso per il naso finto. Non ho parole. Salutiamo anche Roberto, che ci ha faxato. Vicky, cosa vuoi te? Vai via. Sono in onda, cosa vuoi? È veramente incredibile. Eccolo qua, vai via. Ma porca miseria, un insulto via l'altro. Alberto, cosa ridi te, cretino? Poi, ciao amore, sono Barbara. Per fortuna ci sei tu, vedi. Qualcuno ogni tanto mi manda un messaggio positivo. È veramente incredibile. Sì, mi dica. Vuole parlare su tutto il disco o lo facciamo andare un po'? Non lo so io. LPJ, andiamo. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 archivio bot. Casa di telefonia, Infostrada. Hai a disposizione una telefonata gratis a una hotline erotica. Chi vorresti che ci fosse dall'altra parte del telefono? Allora, hanno messo doppiatrice di Sharon Stone, un alieno, Aldo Giovanni e Giacomo, poi bambola gonfiabile, ma non parla, Michael Bolton, Chris Dent, Bill Clinton, Freud e per chiudere Roberto delle telepromozioni. Ma ti rendi conto? È un nostro carissimo amico, però voglio dire, non è molto romantico come telefono hard, giusto? Cos'è che succede? Ah, lo stai chiamando? Sono io, ciao amici, sono Roberto il Babbo. Roberto, certo, non è l'asma, ma è un qualcosa così, non lo so, sto bene di salute. Sì. Però questo non è molto importante, l'importante è salutare Jimmy. No. Devo salutarlo, devo tutto lui. È lui il grande scopritore di talenti commerciali, no? Certo. Jimmy, sei grande, ti sarò devoto per tutta la vita. Un grande Jimmone. Un bacione. Ma ti rendi conto? Mettiamo Jennifer Lopez, non ho parole, guarda. Stai chiamando me? Pronto? Pronto? Grazie Jimmy. Ancora. Pronto? È vero che mi fa il programma. È vero, anche la domenica. Jimmy. Ah, c'è anche lei? Certo che ci sono anch'io. Ah, lo dica. Senta, dobbiamo salutare, niente. Come dobbiamo salutare? L'ho chiamata 70 volte oggi. Ma chi? A lei. Ma siamo al telefono spento. Ok, sì, certo. Siamo staccato il telefono. Ma cosa sta dicendo? Ho parlato con lei 200 volte. Era lì tutto Com'è? Stanco sul letto, sì. Con 7 meretrici, una sul mucca letto? Una mucca. Ma a che ora mi ha chiamato? Ma l'ho chiamata un sacco di volte. Ma scusi, oggi non è dovevi che dobbiamo fare il programma? A che ora pensava di farlo il programma? Scusi, a che ora pensava di farlo lei? Alle 10. È vero, sono le 10? No, sono le 2, dobbiamo salutare. Oh madonna, ho capito. Cosa è successo? Ho lasciato l'orologio con l'ora di Marte. Certo. Ho sbagliato. Sì, certo. E adesso? Adesso niente. Diamo appuntamento domani? C'è anche lei? Certo che ci sono anch'io. Dalle 4 alle 6 c'è lo Zoo di 105, anche va domani. Beh, arrivederci. Il mio programma. Arrivederci. Ma guarda che ho parlato con lei 7 volte. Senta. Sì. È vero che lei rompe le palle alla gente la domenica? Non è assolutamente vero. Arrivederci. Senta, scusi, per chiudere una cosa, è arrivato un fax da un certo Alberto di Biella e dice: nasino di fata, capodanno cosa farete? Dillo, non fare il prezioso. Risponda lei a sto punto, visto che il capodanno lo passiamo insieme quest'anno, lo dica lei. Senta, innanzitutto io faccio un gran gesto di beneficenza a venire con lei. Sì, poi? Perché nessuno la vuole, diciamo la verità. Ma non né è Claudio, assolutamente... né anche sua mamma. Ma la smetta, lasci stare mio padre e mia mamma, poi? E quindi? Dove siamo a Capodanno? Lo posso dire? Non si dice. Ma perché non si dice? Fino a domani. E comunque, arrivederci a domani. Ok, dalle 4 alle 6 c'è lo Zoo di 105. Chiudiamo carichi. Va bene. Non piace. Ecco, ciao. Va a dormire? Magari, sono distrutto. Ah. Non si vede? Più distrutto lei della macchina. non è importante. Ma come non è importante? Senti, David, sì. Cosa vuoi a Natale? Perché? Jimmy's bell. Eh? Perché? Che brava persona. Ma... Senti, allora, io ho fatto un lavoraccio stanotte, sono stato in piedi tutta notte. Non è vero. Ecco. Hanno lavorato per me questi quattro pezzetti barboni, sì, che lavorano per sistemare la pellicola del film Mucani. Tra poco facciamo sentire Mucani, che sei d'accordo? Perché? Ma basta! Perché Mucani, che è un film che avrà un grandissimo successo. Andate avanti a litigare, intanto mi metto al prossimo disco, per favore. E quindi. Si incazza. Yeah. Ma chi cacchio è? Nasone. No. Sorridete, ragazzi, che vi faccio una foto. Vai. Perché? Perché fate schifo. Ma si può essere così deficienti da fare le foto, mamma, in onda? Mamma. Non c'è la mamma. Mamma. Non c'è, non mi ricordo chi è. Quel disgiocchi non gli ha ancora dato comunque un orario fisso, perché noi abbiamo sentito il palinsesto della sua radio, ma lui non ha ancora un orario fisso, quindi perché lui sarà la sorpresa del palinsesto quando tutti gli altri ormai capiranno, certo, che praticamente noi non abbiamo niente di forte. Sì. Entra lui, certo. Ma adesso attenzione, cari 105isti all'ascolto, è arrivato il momento di presentarvi in anteprima audio il film, penso, più importante della storia del cinema. Fior fior di soldi che ho messo. Esatto. Dopo aver ascoltato in anteprima audio la prima puntata di Mucanic, attenzione, questa è la seconda, solo su Radio 105. Sigla. La Mucca Pictures presenta un colossal cinematografico, un evento mondiale, in collaborazione con Parrocar. Dopo il successo di Titanic, l'affondamento continua con Mucanic, la mucca che affonda di poppa. E che poppa! Una storia struggente, un lungo muggito, tante palpate, 8 ore di bolle, schiuma. Dino Di Chiano e Rossana Di Moffitta sono Mucanic. Nella puntata di ieri, Dino Di Chiano e Rossana Di Moffitta, durante una consueta limonata di 8 ore, non si erano accorti che la loro passione in comune, la mucca Muriel, era scivolata nell'acqua e stava affondando di poppa. E che poppa! Dino, toglimi le mani dalle tette, aiutami a buttare qualcosa in acqua a salvare la nostra mucca Muriel. Sta affondando di poppa. E che poppa. Vabbè, ma non posso aiutarti a salvare la mucca tenendoti le mani sulle tette? Guarda, Dino. Beh, c'è una corda. Buttala intorno al collo della mucca e legala ad un albero, così facciamo leva. O leva. Ok, amore mio, limonami un po', come fanno nei film, che crea atmosfera e fa creare un po' di lacrime al pubblico. Dai, pigliati 20 centimetri di lingua e muoviti ad attaccare la corda all'albero. Ok, light of my eyes. Cosa? Luce dei miei occhi in inglese. Va che sto film lo vedranno anche in USA, eh. Oh, la cima è attaccata, proviamo a tirar sulla mucca Muriel. La pompa è così sprofondata. Dai, tira! L'albero era di Natale, ma non la festività, bensì del contadino Natale di Ceppo. E che Ceppo! L'albero era talmente fragile che... Oh, si è spaccato! Ma sei un pirla! Quello non era un albero, ma un... Oddio, annegano! Stiamo affondando con la mucca. Oh, mentre aspettiamo che ci salvano, perché non limoniamo ancora un po'? Ancora? Fa molto la laguna blu. Vedi? Avevo ragione io, tu ami solo la mia lingua. No, non è vero, io amo anche le tue tette. Dino Di Chiano e Rossana Di Moffitta, già vincitori di 2 premi Oscar come migliori attori maschili e femminili, protagonisti e non, certo, vincitori della Coppa della Sagra del Vino di Tropea e già campioni d'incasso dopo 30 secondi di proiezione, vi aspettano nei migliori cinema. Senta, ma è sicuro di questo film? Eh? Con tutti i fior fior di miliardi che ho speso per questi attori di prim'ordine, cioè voglio dire, seta, Fa schifo. Chi, lei? Cosa mi aspetto? Noi vorremmo sapere che cosa fa a Capodanno lei. Illustre. Assorda. Abbia pazienza. Ecco. Che bello, tutte le canzoncine di Natale. Anche gli NSYNC hanno fatto Merry Christmas, Happy Holidays. Ma per esempio, un uomo della sua grandezza e della sua importanza, cosa farà il giorno di Natale? Dove sarà lei? Possibile che lei non capisce proprio niente. Perché? Natale è l'unico giorno dell'anno, sì, in cui io lavoro. Come lavora? Sì. Fa tutto il contrario lei. Sì. E che lavoro fa? Che lavoro svolge? E io comincio a lavorare la sera del 24 e finisco il 25 mattina. Ma lavori forzati? Tipo miniera? Ma no, c'è uno che un po' di anni fa mi ha detto: senti, ti do una slitta, un po' di rede. Certo. Ti do un po' un sacchettino. Certo. Ti devi mettere questo costume. Quindi è lei Babbo Natale, eh? E guardi, non glielo volevo dire, però adesso mi toglie le parole di bocca. Certo. E quindi insomma ho da fare. Ma c'è qualcosa che lei non è, vorrei sapere, eh? Sì. Che cosa? Un pirla come lei. Ecco. Lo sapevo io. Non piace. Non piace il programma. Il programma non piace. Lo so, non piace. C'è niente da fare. Ho parlato un po' con tutti. E quindi con Edoardo, sì. Con Alberto, sì. Con Andrea. Sì. E il programma non piace. Ecco. Ho parlato con i venditori, con Piero, con Faienzo. Ma? Con Tasso, con tutti. Il programma non piace. Bene. Non piace. Andiamo avanti. Vado anche contro tempo, vai. Vai. Che animale. Facciamo sentire anche questa versione ad Adamski. Sicuramente la stampa ha fatto fare 8000 versioni di questa canzone. Quindi c'è quella di Moroldo, anche quella di Wender DJ. Sì, certo. Veramente, sì. Bella, come fa? Senta, dobbiamo insultare un po' di gente. C'è la bastardata del giorno. La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. E vai con la basella. Ma cosa c'ha contro la mia basella? È carina invece. Abbiamo ricevuto un sacco di fax. Ci sono un sacco di insulti da fare. Allora, per esempio: ciao, sono Mirko, voglio che venga la diarrea a tutti i politici. Io non dico niente, però insomma potremmo essere anche un po' d'accordo su certi punti di vista. Poi Marco Bidi di Ferrara dice: vorrei mandare a quel paese la mia ex, che mi sta troppo sulle palle perché si comporta sempre da stronza con me. Che gli passino 20 gatti neri sulla strada prima di passare un passaggio a livello senza sbarre. È innamorato proprio, bravo Marco. Poi mando un'infamata ad una mia compagna di classe: guarda che solo perché sei buona non credere che tutti ti strisciano i piedi. Brutta stronza, firmato Marco. Brava. Brava. Dammi il numero a me. Brava. Poi, qua dice Marco: pensa, ieri il papà della mia donna mi ha telefonato per dirmi che mi lasciava. Che infame, dai. Dal papà ha fatto telefonare. Poteva mandargli un piccione viaggiatore. Sì, certo. E dice: ma adesso il regalo di Natale chi lo vuole? Maria, sei una bastarda, vai macchina ammuccata. Poi per chiudere ce n'è un altro e dice: pensa, Joy, siamo riusciti a far diventare intelligente anche Joy, che è un ascoltatore un po' stordito di 105. È incredibile. Senza offese. Dice: mi sono rotto di tutti i rimbambiti che ho attorno. Che palle. Firmato Jay. E per chiudere, non importa che giorno lo manderete in onda, tanto è sempre valida. Volevo dire a Paola: sei una bastarda, ricordati solo che se oggi Vittorio è tuo è solo perché io non l'ho voluto. Un'altra cosa, due punti, pezzente, mi devi 15.000 lire, sul serio. Per vostra informazione, questa meravigliosa ragazza mi sta dividendo da uno dei miei migliori amici. Baci a Mazzoli e baci a Jimmy. E quindi previsione, anzi macumba da parte del mago Wender. In conseguenza, base. Eccomi! Si è svegliato. Scusate un attimo. Che cosa prevediamo per tutte queste persone cattive che hanno fatto innervosire i nostri ascoltatori? Allora, sì. Prima di tutto saranno rinchiusi tutti insieme, sì, dentro una stanza piena di gatti neri. E già lì porta un male atroce. Mamma mia, poi? Poi vi offriranno del pane e patè di elefante con cipolla. Che schifo. E catrame, tanto sì, per. Buono! Poi vi sarà proiettato un film Titanic per 37 volte senza pausa, e poi a un certo punto entreranno degli uomini alti 10 metri incazzati come degli uomini alti 10 metri e vi massacreranno di mazzate. E solo lì potrete dire: perché? Perché? Perché? Oh! Che bravo. E poi alla fine dovranno ripulire praticamente tutta questa stanza. Sì. Daranno fuoco. No, puliamo bene. La pulizia è importante. Mamma mia. Ma quanto sono incazzati gli uomini di 10 metri? Ha paura. Che bravo. 10 metri. Ti fa capire il valore della vita, veramente. Certo, siamo quasi alla fine dello Zodi 105. Questo è l'ultimo disco di oggi. Che bravo. Guarda, è bravissimo. Jimmy, ti amo. Ma come, che gran amo? Persona. Lo ami? Sì. Che schifo. Dai! Cosa c'è? Dai! Siamo in ritardo. Dai! Mamma mia, calma. Dai! Allora, dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno faxato, che hanno partecipato ai nostri giochini. Che cosa? Mi dica. Volevo ringraziare. Sì. il Jimmy Fan Club, sì? Di Porto San Elpidio. E dove si trova? Non lo so, però c'è un Jimmy Fan Club. Certo, è poi, fantastico. Scusi un attimo. Sì, vado avanti. Ila, non ti disperare, adesso ti chiamo. Ma cosa? Chi è? È una che mi scrive, che dice che mi deve sentire. Adesso la chiamo, vediamo un attimo se viene su da lì. Ma come, anche lei no? E poi un saluto anche a Monica di Grosseto. Va bene. Purtroppo ho già dato. Ma come? Mamma! Ora questa mamma, non so Basta. Chi è tua mamma, devi cacca. Ma suo figlio lo lasci a casa. Sì, allora ascolta. Allora, per Natale va bene il garage gigante? Ma come? Perché? Ma basta! Va bene un pupazzo di Winnie Pooh? Perché? Ma suo figlio non sa dire altro! Va bene se ti porto a Disneyland? Perché? Lo vuoi un pupazzo di Mazzoli? No, mi fa cagare. No. Che... No. Sembra che ha un timer dietro. Mamma. Ancora. Vabbè, grazie a Gibba, grazie a Jimmy, grazie al mago Wender, da Mazzoli è tutto. Ci risentiamo domani. Perché? Perché domani torna il programma dalle 4 alle 6. Perché? Tra poco 105 perché? New York. Basta! Perché? Perché hai rotto! Cosa succede? Cos'è? Ma cos'è sta roba? Amici tuoi e io sono Peter Ray. Chi è questo qua? Pronto? Evita, basta! Ma allora, chi è questo qua? Suo figlio? Sì. Come si chiama? Basta! Senti, David, abbassa la musica, dai! Perché? Perché la musica alta? I dischi giochi lo sanno, fa male alle orecchie. Ma allora... Perché? Ma basta. Perché fa diventare sordi? Perché? Basta. Perché è troppa musica nelle orecchie qua, fa diventare sordi. Perché? Che fai? Senti, David, fai una cosa. Allora, mercoledì mattina si prevede sulla Milano Venezia nebbia. Perché? Ti spiego. Ti metti all'uscita del casello di Dalmine. No. Bello lì. Fermo. Perché? Basta. Perché? C'è traffico, no? Perché? Porca. Allora, senti, allora, quindi cosa succede? Tu ti metti lì. Perché? Vuoi abbassare l'aereo, no? Perché? Vabbè, lo metta lì in autostrada. Tu ti metti lì in autostrada. Sì. Bello, disteso. E sai cosa fai? Siccome c'è nebbia, le macchine ti vedono meglio. Perché? Perché così almeno... prendi una botticina in testa e sei più contento. Perché? Perché mi hai rotto le palle. Perché? Perché così ti stirano con la macchina. Perché? Ma basta! Ma senta, allora era suo figlio quel ragazzo che c'era in fiera che se l'ha perso, eh? Ma è vero che ti sei perso in fiera? Perché? Ma mamma! Perché non ti trovavano più? Perché? Basta! È vero che Mazzoli ti ha detto che sei un cretino? Perché? Ma basta! È insopportabile! Senti, David... vai a cagare. Perché? Perché? You know what I'm saying? Happy. Ma dove sei andato a scuola tu, scusa David? Perché? Ma basta. È intelligente suo figlio, complimenti. Che gran persona. Mi ricorda quasi quasi il mago. Delle All Saint. Cosa c'è? Ho capito, ma non potete mica litigare chi viene su da lì e non viene su. Ma basta, anche con le All Saints, basta. Siete un gruppo di quattro, voglio certo. dire. Senta, Jimmy, mi fa ricordare che noi oggi apriremo questo spazio nuovo dedicato alla bastardata del giorno. Se c'è qualcuno arrabbiato con qualcun altro, che può essere la propria fidanzata o il fidanzato, può essere il papà, il capo d'ufficio, quello che vuole, ci manda un faxettino allo 02-655-1245 o ci chiama all'800-105-105 e noi eseguiremo, come la famiglia, qualsiasi tipo di infamata, non c'è problema, non rifiutiamo nulla. Cos'è che mi vuole dire? Io volevo fare una domanda, dove andrà lei a Capodanno, uomo più ricco del mondo? Cosa farà? È vero che a Capodanno io posso andare dove voglio, sì. grazie al mio sofisticato teletrasporto che ho messo a punto ormai da anni, sì, quindi, con la NASA. Per esempio? Perché? Basta! Quindi io posso andare dove voglio, per dire, non so, vuoi andare in Olanda? Vai in Olanda, per dire, capisci? In Olanda, certo. Ma può andare anche indietro? Come direttrici in Olanda, Bettina. Può andare anche indietro nel tempo, volendo? Ma sì, vado dove voglio, posso andare, che ne so, se non vuoi che vado in Russia, vado in Russia, vedi? Basta la giochi, qui a giocare. Cioè. Vuoi che vado Dove, mi dica? In Pakistan, vado. In Pakistan. Sì, a una velocità, chi ride? A una partita di calcio, per esempio, lei ci può andare? Eh? Non mi piace il pallone. Non le piace, però? Vuole che vado da Biondi, New York. New York, sì. Sì, mezzo traffico. Ma la domanda che le volevo fare, siccome a Capodanno tutti fanno quella cosa, lei con chi lo farà? Ma mi sembra ovvio. Cioè? Perché? Ma basta, suo figlio! È chiaro, è ovvio che io a Capodanno, visto che lei non può, mi tromberò la sua asinella. No! No! No! Ma perché? Va bene. Qualcuno dovrà pure fare qualcosa, no? Certo! Che facciamo? Vai, perché? Basta! Da piccolo mi chiamavano linguaccio la minaccia, il procaccio figuraccio. Che bella sta canzone, oh! Ma bravo Tony! Tony di Bari, Tony de Bart, che adora farsi intervistare in inglese, ma in realtà lui è barese, non ho mai capito il perché. Fa un po' figo, no? In realtà lui ha abitato parecchi anni a Londra, quindi ormai è più inglese che barese. Cosa state dicendo? Allora, ti spiego. Litigata fra padre e figlio, attenzione. No, ma non è un litigata, è giusto che un padre insegni le cose a proprio figlio. Ma suo figlio David non mi sembra tanto sveglio. Che poi un figlio non capisca un cacchio come lei, questo è un altro discorso. Però, mi scusi Claudio, adesso lo vorrei dire, però... Ce l'ha con mio padre oggi, certo. Salve Claudio, sta bene? Ecco, vabbè. Poi ci vediamo per quell'affare lì, comunque, ecco, vabbè. Sì. Allora ti spiego, non si dice CD Competition. Perché? Ma basta! Perché se dopo la pubblicità c'è CD Competition. Ma non lo dica! È una sorpresa! Perché? Ma perché è una sorpresa? Quindi se è un gioco sorpresa. Perché? Non si dice! Perché? Perché se Mazzoli è ribambito e lo dice. È ribambito! Ma come? Vedi? Bruno! Oh. Ma tu ti fai condizionare così da Gibba? Beh, io ci provo, no? Certo, perché speri dopo, che qualcosa. Anche perché dopo due anni che uno prova a prendere la linea con voi. Da poco, no? Vabbè, è un peccato che sono quattro mesi che ce l'ho di 105. No, no, con te sì, ma sei talmente avanti. Sei talmente avanti che ti prenotavi sin due anni fa. No, ma io anche prima. Certo. Senti, sono veramente assiduo. Hai vinto un Empire State Building componibile, grandezza naturale, guarda, da mettere nel tuo giardino di casa, ok? Ma sono contentissimo, guarda. Sei felice? È un peccato che poi quando lo monterai ti crollerà addosso, però sono cose che succedono. Non farci male, no? Certo. No, dai, ti mandiamo il CD di David Bowie, sei contento? Contentissimo, ti ringrazio. Vuoi salutare qualcuno? Sono contento di aver preso la linea, guarda. Ma anche noi, voi. Guarda. Siamo veramente contenti, guarda. Mi viene a piangere da quanto sono contento. Bruno, grazie. Ah, io sto a piangere già, eh. Anch'io, Bruno. Perché? Non lo so perché. Non lo so perché. Bruno, ti voglio bene, Bruno. Oh, comunque ti sembra un pezzente, eh. Ancora, ma basta. Ciao, bell'uomo. Ciao, un bacio, ciao. Lei e l'inglese sono due cose totalmente separate. Ma molto che gran persona. Ma chi? Gaia. Vieni su da lì anche lei. Sempre disponibile. Certo. A tutte le ore. Certo. Senta, scusi. Mi dica. È vero che lei quest'anno. Cosa? Vincerà il premio SMS Script Team. Perché? Perché è sempre lì che scrive ti con la zinella ti. Ma non è vero. E adesso ti amo io, adesso mi ami tu, adesso pirla io, adesso pirla tu. Ma pirla sarà lei. È vero? Ma non è vero, ma smettiamo. È vero? Ricevo un messaggio all'anno. Scusi, io non voglio nascondere niente ai miei ascoltatori che un domani mi si venga a dire Jimmy mi hai nascosto quello. Certo. Jimmy mi hai nascosto quell'altro. Ha ragione, assolutamente. Noi siamo così come siamo, cioè veri. Non lo so, scusi, mica colpa mia se attraversa l'Italia per andare a Bologna. Ma che cosa sta dicendo? Mica colpa mia, che prende 8 aerei per fare da Lecce a Bologna. Se lei, scusi, si informi. Lei è un bastardo. Guardi che non è mica come il treno l'aereo, Lo so, lo spiego, ma non è colpa mia, cioè, non è che si sbaglia un treno. Era domenica e quindi c'era da far scalo a Roma. Eppure sull'aereo col telefonino. Ma non è vero. Ma si vergogni. Senta, vergogni. Devo giocare, dai. Dai, andiamo. Ascolta questa canzone e chiama subito 800 105 105. Se saprai dirci quali animali la compongono, troverai un capellino e una maglietta di Radio 105. Animal. Compilation. Animal Compilation. Due magliette e due cappellini. Mm-hmm. Direi che l'ultimo è facilissimo, eh? Meno male che facciamo questi giochi intelligenti alla radio, perché guardi. 800 105 105 in palio due magliette, due cappellini di Radio 105 per la persona che ci saprà dire chi sono, quali sono gli animali che compongono questo disco. Cosa c'è? Uno squalo balena. Una storia poco pratica. No. Ippopotamo. No. Mazzoli. No. Nonostante i chilometri fatti, gli aerei presi, la stanchezza addosso, il Mazzoli ha goduto ieri, è stato proprio bello, proprio bello. Show, comunque è una bellissima esperienza. Grazie per averci detto questa cosa. È bello dormire in regia, è bello con la bava alla bocca, è una bella immagine. Francesco Renga, ex Timoria, era a Fogo Baby. Animal. Abbiamo un ascolta mucca da Chieti, ma è vero o non è vero? Verissimo. Ciao amorino. Ciao Marco, come stai? Come ti chiami? Che non mi ricordo più. Francesca, con l'acqua finale però. Come stai tesoro? Tutto a posto? Sì, sì, tutto. Senti, ok. Senti, ma è vero che io sarò praticamente orgogliosissimo di te perché tu mi saprai dire quali sono questi benedetti otto animali che compongono questo benedetto disco che già non sopporto più? No. Ah, fantastico. Vuoi risentirlo o ti butti così a vuoto, a pesce? No, no, voglio risentirlo. Risentiamo la tristezza, andiamo. Questo è facile. Anche questo. Anche questa. Ma soprattutto questo. Vero? Verissimo. Dai, amore, buttati. Allora, l'asino. L'asino c'è, perfetto, ok. La foca. Poi. Il maiale. Sì. Il cane. La mucca, il gatto e l'upupa. Allora, ti dico solo che ne hai indovinati 3 su 8. Ed era l'upupa, l'asino e la mucca. Ma amore, ma scusami, l'ultimo verso del disco ormai è strafamoso perché è praticamente la mia fidanzata quando parla. La foca. No, ma ha detto l'asino. C'è un asino e poi c'è un altro. Vabbè, cioè quella femmina, vabbè. Praticamente, vabbè. Amore, vabbè, niente. Il montepremi sale a 3 maglietti, 3 cappellini, ma non vinci nulla, amore. Ok, va bene, riproverò. Però hai vinto un Francesca. Grazie. Ciao tesoro. Ciao, Marco. Ciao amore mio, ciao. Ciao. Animal Compilation. Torna domani su 105. Io lo sapevo. Guardate come mi ha ridotto la natura. Ma come? Guardate che naso. Cara, girati, non guardare. C'è un barbone lì sdraiato per terra. Fa davvero schifo. Ma è rivoltante. Poi guarda che naso che hai. Ma che schifo. Dai, diamogli qualcosa a sto barbone. Davvero messo male. Che barbone pezzente. Ma che naso. Nasone. Jimmy. Si sarà sbagliata la macchina? E pensare. Cosa? Che io tutto questo l'avevo già previsto 6 anni prima. Ma come? È veramente incredibile. Ma quindi farò il pezzente per tutta la vita? Quindi diciamo che la sua vita non cambierà di molto. Da barbone diventerà pezzente. Posso tenere le 6.000 lire che le devo? Vabbè dai, senta, basta che mi paga le tasse sopra. Grazie. È vero. Show. Ti amo. Anch'io. Baciami. Baciami in bocca, Wender. No. Ti prego. Biadesivi. Ma che biadesivi? Sì, siamo ammettiamo. Ma che cosa? Tipo. Lo sapevamo già di Mazzoli, magro, non c'è problema. Ma che cosa? Jimmy, non è assolutamente vero. È vero, io non è vero, sono biadesivi. Rimarrai così, io posso cambiare perché sono mago. Certo. Senta, c'è questo nuovo appuntamento. Esatto, questo nuovo appuntamento dove diamo la possibilità ai nostri ascoltatori di insultare chi vogliono. Io guardo Gibba e rido. Perché? È tutto distrutto. Ma sono tritacando. Non è vero. Mettiamo la sigla, forza, andiamo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Che cattiveria. Cattiveria. Allora, c'è un fax che arriva da. Scusi, che base c'ha? È da cattivo. Non l'avevo sentita. L'abbiamo rubata. Ma sulla base di Ringo per fare. Ma non lo so, l'abbiamo rubata così. Chieda a Gibba. Allora, Raissa manda un fax e dice: posso? Allora, infamata ai libri, ai professori, all'alzarsi presto e fare i compiti e alla scuola. Un bacione grande come il tuo naso. Grazie Mazzoli e Jimmy. Barbone, da Castellina in Chianti. Poi, e abbassami sta base! Non piace! Ma porca miseria! Basta, abbassa, c'è un altro, aspetta un attimo che li ho persi. Ah, questo qua, Massimo da Chianciano Terme dice: voglio dire ad Eleonora di Pienza, è sì, possibile? Di Pienza. Pienza, sei la donna della mia vita, ma non di questa, minchia, bastardissimo. Poi Alessandra dalla provincia di Siena ha rivolto a Francesco: la nostra storia si è trasformata in una farsa, so già che troverò un'altra come te. E ce n'era un altro ma l'ho perso. Aspetta, sì. Dove è finito? Nelle puntate televisive? No, questo non c'è. Questa qua, ti ho affittato le rotaie del tram per domani pomeriggio. Ci troviamo sulla linea del 10. Non è vero. Comunque vogliamo ricordarvi come mandarci le vostre infamate e bastardate. Gibba, per favore, la chiusura numero 2, tasto numero 19, grazie. Senta, posso fare un saluto un attimo a Umberto da Bagheria Palermo? Sì, certo. Ciao. Ah, ok, basta. Andiamo. Niente. Numero 19, grazie. Sì, stia bene. Ciao. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Se sei bastardo dentro, mandaci la tua infamata all'800 105 105 o via fax allo 02 655 1245. La bastardata del giorno. Senta, mi dica, dà anche i numeri all'otto adesso in onda? Ma no, però avendo il mago potremmo anche farlo. Sì, allora, senta, sì. Posso dare un numero? Prego, 98. Non esiste. 95, dai. Che bravo, che bravo, che gran persona. Abbiamo fatto una nuova versione di questo disco, lo sa? Stia calmo. Fa così, adesso lo facciamo sentire, eh? Deve partire il ritornello. A Lecce, quando siamo andati giù a Lecce, ci hanno alzato le mani loro, però è uguale. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 Archivio Bot. Oggi giocheremo a Mugisce e Vinci, poi Animal Compilation. Vi daremo uno spazio fantastico che si chiama La Bastardata del Giorno, se volete mandare a quel paese qualcuno tramite fax o telefono. Poi oggi ci sarà la seconda puntata in anteprima audio di Mucanic, che ieri purtroppo il bambino di Jimmy ha rovinato. E poi ci collegheremo con Marte, dove è in corso il Motor Jimmy, questa grande manifestazione di motori che si trova appunto su Marte. Abbiamo ricordato tutto? Bravo. Possiamo iniziare? Mettiamo la sigla? Donne motori, sono dei dolori. Eh beh, è vecchia questa. Bravo. Quante cose oggi, quante cose, quanti appuntamenti, quanti avvenimenti. E non c'è spazio. Ma perché? È lì con suo figlio? Senti, David. È vero che Gaia è venuta su da lì con te? Suo figlio cos'ha? Perché ridi, scusa? Non ce la fa. Non ce la fa. Vabbè, senta, allora colleghiamoci. Dobbiamo collegarci con Marte, giusto? Ah, ecco. Perché? Ti spiego, David. Ma suo figlio non è molto intelligente, mi sembra. Ma perché? Perché dici solo perché? Senti, siccome Mazzoli è un cretino. Ecco, solo quello sa dire. Tu che sei bravo in tutte queste cose strane, mi puoi far comparire il programmatore? No, io non farlo più in teatro. Cosa sta dicendo questa? Mi fai Claudio, non fanno più in casa. Ma lascia stare mio padre. Mi fai comparire il programmatore musicale? Devo chiedergli una cosa. Un attimo. Vai. Giù un attimo. Sì. Programmatore musicale della radio. Aiuto. Eccomi qua, buonasera. Ciao Puccio. Come state? Senti, ma la plage, io sono un po' ignorante in generale, però in francese ancora di più, vuol dire la spiaggia o il plagio? Ma soprattutto la plage, che cos'è? Ah, Sammy, il disco che stiamo ascoltando adesso. Sì. Veloce, va bene, arrivo. Cosa vuol dire, la spiaggia o il plagio? Io dico la spiaggia. La spiaggia, per me. Sarà. Chiamiamolo It Was Him, così siamo a posto. Però adesso devo fare appare un'altra persona. Sì, l'autista della radio. L'autista? Sì. Autista della radio? Autista! Eccomi! È fantastico! È arrivato! Che bravo! Che bravo! Adesso lo faccio morire perché basta. No, non fanno morire! Dobbiamo giocare a Blockbuster, vai, sigla! State qua! Amy! Sono Evie! Chi? Evie con la V, no? Evie, scusami, Evie! Evie! Amore! Dimmi tutto! Mi sai dire? A quale film appartiene quella benedetta canzone che abbiamo fatto sentire poco fa? Godzilla? Ma vieni! Vi pago per niente, applaudite! Brava amore, grazie, sei fantastica! Grazie. Lo sai che hai vinto un sacco di cose? Sì, sì. Wow! Hai vinto veramente l'impossibile, hai vinto 3 noleggi gratuiti, una tessera Blockbuster, il cappellino, la maglietta di 105. Sei felice? Sì, sono contentissima! E poi è da una vita che cerco di prendere la linea per il CD Competition, per parlare con te, per vedi, tutto, tutto insieme. Pensa che adesso non parlerai più. Ma poverina! Perché guarderai il film. Ah, ecco. Un bacino Evi, ciao tesoro! Un bacione, ciao! Ciao, dobbiamo invece parlare di un gossip che riguarda Ricky Martin, che si dà forse al cinema. Si è recato a Las Vegas, al lussuoso Mandalay Bay Resort, per incontrarsi con l'autore e produttore Ron Mowers, che vorrebbe convincerlo a girare un film. Secondo Las Vegas Review, la pellicola intitolata Blood Crossing verrà girata tra la città del Nevada e il Messico a partire dalla primavera del 2000. È bello quell'albergo. È molto bello, sì. L'albergo dei resort. Certo. Che bravo! Cosa sta facendo? No. Allora, dobbiamo fare una pausa, lo sai? A parte quello che dobbiamo, sì, fare una pausa, perché io purtroppo, sa, vivendo della pubblicità della radio. Certo, lei è il padrone indiscusso. È chiaro che ogni tanto bisogna fare delle pause. Mi sembra ovvio. Vogliamo ricordare anche il titolo del disco? The Power of Love di Huey Lewis and the News. È uguale. Eh? È uguale proprio. Sono meglio di Biscardi, però. È vero, è uguale. Thank you. Attenzione, sì? Devo sfogarmi. Cioè? Jimmy, eccoti l'autista. Io! Eccomi. Ma come, anche di lì? Scusa, però ci ha preso gusto. Mi devi rinfrescarmi un po' la memoria, perché sai, ne ho 800. Qual è questo qua? È il numero 32. Ah, ecco, sì, bravo. Quanti autisti ha lei? 800. 800 autisti. Infatti stasera voglio tutti accompagnarmi alla cena della radio. Cosa faccio? Porto 800 macchine? Ma li porti, tanto. Che tra l'altro non si dice che c'è la cena della radio. Non diciamo. In via Pier della Francesca 55. Non si dice. Ci sono tutti. Dobbiamo fare una pausettina, ma lo Zoo di 105 torna tra poco con la bastardata del giorno. Sì. Chi cambia radio, che cosa gli succede? Domani mattina si sveglierà e dirà: ma che? Fra poco. Offre la radio. Adesso di questo inverno 99. AC1, Sing a Song. Now now, salutiamo il Turetti. Ciao bell'uomo. Che bella persona, dai, lo dica. Guardi, quest'estate era con me. Sì. Veramente una gran persona. Certo. Un bel bombolotto, guarda. Certo. Per quelli che non sapessero chi è, lui è anche il produttore di Kim Lucas, eh? Che gran persona, Kim Lucas. Che gran persona. Una che ci tiene sempre. Senti, è arrivato il momento della bastardata del giorno. Sigla. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Non ride per la base? Quando parte. Allora, questo è veramente pesante. Ciao, mi chiamo Massimo e ho da proporvi un fatto che lascio giudicare a voi se ritenerlo una bastardata o no. Ho una ragazza con cui vado molto d'accordo in tutti i sensi, ma la cosa strana è che vado d'accordo anche con sua madre. Voi direte che è tutto normale, a grandi linee, chi è che non va d'accordo con la madre della propria ragazza? Io vi posso dire che ci vado talmente d'accordo che le sono entrato nel sangue, così dice lei. E da quello che facciamo a letto lo credo anch'io. Non ci posso credere. La bastardata della situazione è che sua figlia, cioè la mia ragazza, non lo sa. Siete mitici, un mu. Ciao a tutti. Cioè, ti rendi conto, questo va a letto con la mamma della sua fidanzata? Allora la figlia, passala noi. Poi, attenzione, questa è una bastardata un po' rivolta a 105, eh. Dice: ciao Mazzoli, bastardo dentro e fuori, una domanda al grande Jimmy. Se Max Pezzali è a New York, chi era in diretta ieri sera al Night Express con Jovanotti? Aspettiamo risposta. A che ora è andato in onda da New York, forza? Dalle 6 alle 8. A che ora è andato in onda il Night Express? Alle 11. E allora? Ma dai, vuol far credere alla gente che fa avanti e indietro. Ma scusi, secondo lei c'è altra maniera? Ma sì, era registrata la puntata del Night Express. Non è vero. Ma certo. Ho parlato con Tamara. Certo, anch'io ho parlato con Tamara ieri. Che gran persona. Ciao Mazzoli, sono Luis. Vorrei tanto mandare a cagare il 99. È stato un anno besti puntini puntini. Ho lavorato tanto e guadagnato niente. In casa si è guastato tutto. Il 2000 può solo che essere migliore. Poi, per la bastardata del giorno, avviso tutte le donne che stanno intorno a Simone. Fuori dalle palle, vi annienterò, ninfomani che non siete altro. Firmato Eli. Poi c'è un altro dedicato a Max di Chianciano dalle sue amanti. Sei l'uomo giusto per noi, ma non sappiamo perché non riusciamo mai a dartela. Sei dolcissimo, ma in questo momento è come se avessimo il diabete. Un bacione dalle tue commesse preferite un po' meretrici. Poi Mazzoli, una bastardata per me. Arriva sempre dopo il suo naso. E poi vorrei che a Mariano scoppiasse uno dei suoi petardoni in mano e che il suo sangue schizzasse sui vestiti negli occhi di Laura. Così impara a dir di no. Puccio, fai più schifo di Mazzoli. Ma ti rendi conto? Ma perché devo sempre massacrare me? Eh? Tu sei la vittima. Certo, vabbè. Ne abbiamo tante altre che magari leggeremo domani. C'è anche uno scherzo da fare. E quindi, non so, vuole dire qualcosa? No. Facciamo dire al mago? A tutte le persone bastarde, mago. La previsione del giorno a questi cattivi balordi. Bravo. Avrete la fortuna di assistere al capodanno del 2000. Aspetta che tolgo la gomma. Sì, veloce. Rifai ripartire la base, grazie, Giba. Grazie, ok. Avrete la fortuna di assistere al capodanno del 2000. Sì. Ma la cosa peggiore è che alla mezzanotte ritornerete indietro di un giorno. Cioè? E quindi per 7 mesi? Sì. Quindi per 7 mesi sarà sempre lo stesso giorno. Ma come? Tu pensa, arrivi a mezzanotte, siamo nel 2000, tac, torni indietro di un giorno. No. Per 7 mesi. E quindi... tutti i giorni le stesse cose. E a un certo punto... arriveranno 7 uomini alti 37 metri stavolta e vi ammazzeranno di botte e vi metteranno in bocca un tappo di cioccolato tutto squadrato. A un certo punto incontrerete Jimmy e lui dirà: te chi ero? Che gran persona! Poi li ammazzeremo di botte e a un certo punto arriverà anche Mazzoli con l'aso e li succhierà dentro e li farà assaggiare le sue calcole enormi. Ma che schifo! E tutti insieme direte 105. Cosa c'entra? È perché il marchio va sempre prima di tutto. Dobbiamo dirlo, dobbiamo farlo. Quanto erano alti? 37 metri stavolta. Madonna, quanto... no, però magri normali come noi. Lunghissimo. Arriva il vento, se cade per terra si ammazza. Te credo. Ma calmo, arriva per l'alzo. Che brava persona, caro. Mettiamo l'ultimo disco di oggi, Lenny Kravitz. Facciamo il capodanno insieme. No, dato, che dolcezza, Io appartengo a te e tu appartieni a me. Però io la girerei in questo modo. Io ti ho creato, caro mago Wender, sì. E io ti distruggo. Come fai? Ma che schifo. Smettila, dove l'hai messa la cornetta? Dove l'hai messa la cornetta? Diciamolo. Nelle mutande era la cornetta? Mago? Mago cosa? Jimmy? Facciamo capodanno insieme.